Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno da Ferry Boat. Vi ricordo, sono Enzo Argante, il traghettatore, che potete parlare con me, o meglio scrivere, all'indirizzo ferribot@radio24.it. 8 gennaio, siamo alla prima settimana del nuovo 2011, ci piace esordire con uno sguardo proiettato in avanti. Cosa meglio di uno sguardo proiettato in avanti attraverso i nostri amici del team Singularity University for Italy? Vi ricordate la Singularity University? Se non me lo ricordo, vi aiuto io, giovani e anche meno giovani, diciamo la verità, che hanno fatto un'esperienza importante, approfondita e di lungo tempo alla Singularity University, fondata da NASA e da Google, per guardare avanti, per guardare alla nuova impresa digitale e sociale. Singularity University di NASA e Google è meglio e si ricomincia da 4. Ecco il team che punta all'impresa sociale digitale made in Italy. Le biotecnologie, per esempio. Lo sapevate che sarà possibile produrre farmaci personalizzati per ciascun paziente? Per non parlare delle nanotecnologie, marchingegni infinitesimali capaci di affrontare e risolvere problemi che sembravano irrisolvibili. E con noi c'è Eric Ezechieli. Eric, il team Singularity University for Italy ha alcune indicazioni di base. Uno è quello, abbiamo detto, dell'impresa digitale sociale made in Italy, come scritto nel sommario. L'altra è che c'è un credo, c'è una base di riferimento, quella di conoscere, di condividere e di analizzare il futuro dell'impresa dal punto di vista della crescita tecnologica esponenziale. E questi sono gli elementi di team Singularity University for Italy. Sì, diciamo che stiamo vivendo un'accelerazione tecnologica che non ha precedenti nella storia, e questo è molto distante dalla nostra percezione, dalla nostra capacità di comprendere come le tecnologie si possano evolvere. Vi faccio un esempio semplicissimo: 30 passi lineari fanno 30 passi, 30 passi esponenziali fanno un miliardo di passi. Vuol dire che al passare del tempo le tecnologie crescono, si evolvono, e l'evoluzione accelera costantemente l'evoluzione di nuove tecnologie. Quindi nei prossimi pochi anni vedremo dei cambiamenti molto più grossi di quelli che abbiamo visto magari nei decenni precedenti. Quindi sull'impresa, sull'attività dell'impresa, sulla capacità di incidere dell'impresa sul sociale, sul lavoro, sono molti cambiamenti che sono anche imprevedibili, però, perché quando tu dici 30 passi lineari e 30 passi esponenziali cambia tutto, ma c'è anche una notevole dose di imponderabilità in questo. Sì, proprio il concetto di singolarità è quel punto oltre il quale diventa difficile fare previsioni, ma l'abbiamo già visto ad esempio con i telefoni cellulari. Le previsioni di una ventina d'anni fa parlavano di 15 milioni di telefoni cellulari al 2000, oggi abbiamo 5 miliardi di telefoni cellulari, quindi cambiano anche i modelli di business e cambia proprio la necessità di competenze da parte dei management, dei leader delle aziende. Infatti tu nella presentazione parli anche di una trasformazione dei modelli educativi, che devono cambiare ovviamente, se no se continuiamo a studiare la preistoria e poi nel frattempo siamo nel futuro. Diciamo che le nostre scuole, lo sappiamo, sono state progettate su un modello da rivoluzione industriale, dove bisognava formare persone che erano capaci di eseguire dei compiti predeterminati. Oggi questo non si applica più, quindi bisogna completamente trasformare anche i nostri sistemi educativi e le scuole, e ci sono anche dei modelli molto interessanti di come questo si sta verificando in giro per il mondo. Singularity University è anche un esempio di questo nuovo modello di educazione. Stavo dicendo proprio quello, proprio a cominciare da Singularity University, che è indescrivibile, no? Secondo un piano tradizionale di studi, ed è una prima dimostrazione di come l'apprendimento debba ovviamente correre in orizzontale, non più in verticale. Sì, è è molto più simile al concetto di un laboratorio, di un workshop, dove si impara facendo e confrontandosi e con l'aiuto di coach che sono degli esperti di altissimo livello, dove però l'apprendimento avviene attraverso il fare, attraverso il progettare e lavorare in team come di solito non avviene dentro le scuole o in ambito universitario. Bene Eric, grazie, corriamo perché abbiamo molti ospiti in questa trasmissione, praticamente tutto il team Singularity University. Eric, ciao, grazie della tua partecipazione. Ciao, grazie. E la seconda appartenente al gruppo è Chiara Giovenzana. Ciao Chiara. Salve a tutti. Salve. Con te e con gli altri che seguiranno adesso facciamo degli esempi un po' più, come dire, comprensibili a chi è fuori dal vostro giro di conoscenza, questa volta però non di tipo lobbistico ma di tipo culturale. Affrontiamo con te il tema delle biotecnologie. Abbiamo detto nel sommario che, per esempio, era un esempio ma sicuramente molto comprensibile, i farmaci non saranno più farmaci per tutti ma elaborati, come dire, costruiti, prodotti per ciascun paziente. Aiutaci a capire da questi esempi che cos'è la biotecnologia. Le biotecnologie, come dicevi tu, avranno un grossissimo impatto proprio sulla vita anche di tutti i giorni, ad esempio sui farmaci. Quindi infatti la combinazione delle tecniche di biologia tradizionale, anche con le conoscenze tradizionali, con il mondo digitale. Questa combinazione è davvero un binomio dirompente. Faccio l'esempio appunto del farmaco. La nostra genetica, il nostro DNA determina come ciascuno di noi reagisce ad un farmaco, ad una medicina. Con le nuove biotecnologie è possibile leggere il DNA di ciascuno di noi e andare a disegnare un farmaco che è specifico per me, specifico per te, per chiunque di noi. Quindi con un'efficacia incredibile e ridotti effetti collaterali. Ecco, nell'immaginario collettivo, quando si fa riferimento alle biotecnologie, complice anche la fantascienza non più tale, si pensa anche alla riproduzione di organi malati che vengono riprodotti in laboratorio e sostituiti. È così? È realmente così? Questa è la visione del futuro ed è una cosa che sarà possibile. Ci sono le premesse, diciamo, scientifiche ci sono tutte. Sì, le premesse ci sono e quindi un domani sarà possibile, invece di dover trapiantare un organo da un donatore esterno, semplicemente prendere delle proprie cellule staminali, magari dal sangue, e da lì creare l'organo che ci serve, quindi senza più rigetto, senza più problemi di liste di attesa, senza più problemi anche etici che possono essere legati al trapianto. Ecco, tutto questo sarà possibile grazie alla capacità che avrete, che avranno le strutture, di leggere il DNA di ciascun paziente. Si comincia da lì? Grazie a questo e grazie anche ad altre scoperte scientifiche, quindi ad esempio alla possibilità di crescere le cellule in tre dimensioni, quindi generare tessuti, generare organi, ma grazie anche al contributo del mondo digitale, proprio delle tecniche di informatica, di automazione. Le biotecnologie e i successi che stanno avendo non sarebbero possibili se non ci fosse questo binomio inscindibile tra biologia e digitale automazione. Grazie Chiara, è proprio il caso di dire buon lavoro e buon anno. Passiamo, ciao Chiara, dalle biotecnologie a un'altra tecnologia, questa volta nano. Valentina Margaria, sei qui con noi. Ciao Valentina. Ciao. A te spetta il compito di spiegare a chi ci ascolta il prossimo futuro, intanto cosa sono le nanotecnologie, forse è il caso proprio, e poi che cosa possiamo aspettarci da loro. Cosa sono le nanotecnologie? Allora, le nanotecnologie sono quelle scienze che studiano la manipolazione della materia a livello atomico e molecolare, quindi una materia che noi non riusciamo in qualche modo a immaginare, a vedere, perché è molto piccola, pensiamo che è 1000 volte più piccola del diametro di un capello, per esempio. Quando si lavora la materia di così piccole dimensioni, le proprietà fisiche, chimiche ed elettriche del materiale cambiano. Questo fa sì che le nanotecnologie possano creare effettivamente dei nuovi materiali che costituiscono poi quello che è il substrato per lo sviluppo di sistemi avanzati. Quindi le nanotecnologie possono essere una tecnologia estremamente dirompente in quanto possono essere applicate a tantissime altre discipline, possono essere applicate nel mondo dell'energetica, nell'energetica, dell'ambiente, della medicina, eccetera. Facciamo un esempio, Valentina, un esempio, come dire, magari azzardato, ecco, non ancora realizzabile, ma per far capire, cioè costruire per esempio dei minuscoli computer che possono, ho sentito dire, entrare in vena, per esempio, aiutare a risolvere problemi di salute? Assolutamente sì, e non sono neanche sistemi così futuristici, nel senso che ci sono molti ricercatori che già stanno lavorando su questo. Su sistemi immaginiamo dei microchip come quelli che ci sono all'interno dei computer, che possono essere messi sotto pelle, per esempio, per monitorare il paziente e tutte le sue funzioni vitali. Un sistema come questo cambierebbe assolutamente la nostra idea di sistema sanitario, la nostra idea di degenza, perché il paziente potrebbe stare tranquillamente a casa, avere praticamente una SIM card sotto pelle che analizza i suoi sistemi vitali e poi mandare tutti i dati, per esempio, al medico di famiglia. Quindi ci sarebbe un monitoraggio costante di quello che è il paziente, e non è una cosa così lontana lontana, anzi. Oltre a questo ci sono altri sistemi, per esempio se pensiamo al trapianto di retina costituito da un sistema elettronico fatto di microchip che si basa sulle nanotecnologie, che può in qualche modo ricreare per esempio la vista in un paziente che ha avuto dei problemi di retinopatia. Queste sono cose un pochino più futuristiche, ma comunque ci sono numerosissimi scienziati che ci stanno lavorando con risultati molto efficaci e efficienti attualmente. Ecco. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Sergante per Ferry Boat, se volete parlare con me, ma per la verità anche con Eric, Chiara e Valentina, sul futuro dell'impresa digitale sociale, potete scrivere a ferrybot@radio24.it. Stavamo parlando con Valentina Margaria delle nanotecnologie, è stato, devo dire, si fa anche un po' fatica a seguirti, Valentina, perché sono argomentazioni difficili, però sei stata molto chiara e ci hai incuriosito su un punto, dicevamo prima della pausa, sulla viabilità, e cioè come vengono costruite queste macchine, visto che sono così piccole. Hai detto qual era l'unità di misura, 300 volte più piccole di un capello? No, 1000 volte più piccole. Come si fa a lavorare con macchine così, con aggeggi così? Allora, le macchine che costituiscono sistemi nanotecnologici sono macchine di per sé enormi, perché hanno dei sistemi altamente complessi all'interno che lavorano con laser, che riescono a colpire la materia. Normalmente si utilizza il silicio quando si parla di nanotecnologie, andando a in qualche modo stimolare gli atomi e distaccarli dalla materia. È una cosa molto complessa da comprendere, anche complessa da descrivere, perché quando si parla di nanotecnologie si parla di qualcosa che non si vede, quindi una cosa difficile da immaginare. E chiaramente ci vogliono delle strumentazioni estremamente complesse che lavorano soprattutto con i laser e sulla stimolazione della materia per andare a distaccare gli atomi e a ricomporli in un altro modo. Beh, ti sei scelta decisamente un mestiere difficile, Valentina. In bocca al lupo. Assolutamente sì, grazie. Grazie. Buon anno anche a te. Ciao. E a tutti. Ciao. E con noi anche Luca Escoffier, che è il quarto del team Singularity University. Ciao Luca. Ciao, buongiorno. Ciao. Luca, ti ricordo, perché tu che abbiamo parlato con Eric, con Chiara, con Valentina, quindi sei buon ultimo di questo fantastico gruppo di giovani italiani che vogliono fare impresa digitale con una forte valenza sociale, che ha come base di riferimento la crescita tecnologica esponenziale e che poi soprattutto si misuri anche con, come dire, con il resto del mondo. Luca, e tu questo lo stai già facendo con la tua specialità, che è quella dei brevetti tecnologici. In cosa consiste? Ho cominciato a approfondire la materia una volta terminata l'università, quindi nel 2003 sono specializzato all'Università di Torino e all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale a a Ginevra con un corso proprio nel campo del diritto industriale. Da quel momento poi ho collaborato con un'azienda di Trieste, nel campo delle biotecnologie e della nanomedicina, e diciamo che ho raggiunto la mia massima aspirazione poi andando fuori negli Stati Uniti, dove ho collaborato con l'Università di Washington, ecco, ho insegnato per 2 anni. Che tu ti occupi quindi della proprietà intellettuale dei brevetti, che nel mondo digitale è una bella materia complessa. In che cosa consiste, voglio dire, questa, cioè, com'è che fa impresa questo tema, come diventa impresa? Siamo non solo nel mondo del digitale, siamo nel mondo in cui le tecnologie convergenti, quindi come si parlava prima di nanotecnologie e biotecnologie, stanno facendo e faranno sempre più la differenza. Le aziende più avanzate hanno migliaia e migliaia di brevetti. Solo per farti un esempio, Microsoft e l'IBM sono due delle aziende con i più larghi, i più imponenti portfolio brevettuali, si parla di cifre intorno ai 50.000, quindi la ricchezza di queste aziende è fondata non solo sull'ingegno, ma sul modo in cui loro sono stati capaci di proteggere l'ingegno. È difficile al momento essere competitivi senza avere un monopolio, è quello che appunto viene concesso dal titolo brevettuale, un monopolio legale, cioè il diritto di impedire ad altri di attuare l'invenzione che tu hai concepito. Ecco, dicevi che le università italiane hanno probabilmente oppure certamente i cassetti pieni di brevetti che in realtà però rimangono lì a prendere polvere, dicevi, e non si proiettano all'esterno, sia in Italia che a livello internazionale. È veramente così? E perché succede questo? Purtroppo è così. Siamo in un paese in cui l'ingegno da sempre, insomma, è stato sempre uno dei nostri punti di forza. Purtroppo la valorizzazione dei risultati del nostro ingegno non è stata altrettanto buona. Gli Stati Uniti sono un esempio invece di grandi capacità organizzative. Questi uffici che si trovano nelle università, che di solito vengono chiamati Technology Transfer Offices, hanno delle capacità al di fuori della norma, anche dovuto al fatto che hanno una diversa formazione professionale, quindi ci sono soggetti ad esempio con un background scientifico e un MBA o comunque una laurea in giurisprudenza, quindi persone che riescono non solo a comprendere l'ambito tecnologico in cui un brevetto può coprire, ma anche come poterlo valorizzare, come discorrere con le potenziali controparti. Questi uffici in Italia, nelle università italiane, non ci sono? Questi uffici nelle università italiane ci sono, purtroppo però proprio per il fatto che il nostro tipo di formazione non prevede questo tipo di diciamo di miscela di diverse competenze, le cose sono molto più difficili. Ovviamente i budget sono di gran lunga inferiori a quelli delle università americane, però adesso le cose stanno cambiando, insomma da qualche anno diciamo che le università stanno adottando questo tipo di nuove pratiche, stanno istituendo questi uffici. E per esempio nel mio caso io sto collaborando con l'Università di Trieste e stiamo cercando di importare alcuni, diciamo, dei trucchetti che ho imparato nella mia esperienza statunitense, quindi spero che almeno noi da qui potremo essere all'avanguardia. Luca, il team Singularity University for Italy, che abbiamo presentato molto brevemente in questa puntata di Ferribot, ha in programma di creare una relazione col mondo degli studenti e con l'università proprio per valorizzare l'idea, perché le idee sono importanti, sono bellissime, ma se poi non entrano in circolo in questo mercato ormai mondiale, dico, sono inutili. Certo, questo è uno dei nostri principali propositi. Vogliamo non solo ergerci su una torre per poter far vedere quello che possiamo aver appreso in questa nostra incredibile esperienza alla Singularity University, ma dare un contributo concreto anche. Dare un contributo e poter aiutare tutti i ragazzi che hanno delle idee. Bene, Luca, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo e buon anno anche grazie a te. Grazie a te, Enzo. Buon anno a tutti i nostri radioascoltatori, che aspettiamo sul sito di radio24.it e anche all'indirizzo ferribot@radio24.it. Grazie ad Anita Panizza in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Alla prossima, a risentirci.